Allora, la scultura, il cui titolo è Perché mi guardi così, è una scultura che rappresenta un aperitivo immaginario, nel quale però non ci sono le persone, non ci sono i bicchieri e non c'è neanche il luogo. Ci sono solo delle forme geometriche fatte di bronzo, appoggiate su queste basi di legno di noce, che fanno parte dell'opera ovviamente, e che sono la rappresentazione della forma geometrica del liquido. Quindi praticamente solo la forma del liquido all'interno del bicchiere è l'elemento geometrico che definisce il momento dell'aperitivo. Il titolo invece da dove deriva? Il titolo deriva dal fatto che io ho immaginato due persone in questo aperitivo che conversano, si guardano e una dice all'altra appunto perché mi guardi così. Quindi c'è solo l'idea, come dicevo prima, della geometria e di questa. E di questo ipotetico sguardo di una persona verso l'altra. E come le è venuta l'ispirazione per fare questa scultura? Ma l'ispirazione viene nei momenti più impensati. In effetti anche io stavo bevendo un aperitivo e ho, come posso dire, e la mia attenzione è caduta non sul bicchiere, ma sulla forma del liquido interno al bicchiere. E dopo questa prima intuizione, assolutamente irrazionale, ho poi iniziato a ragionare sull'opera per giungere ad una formalizzazione che, diciamo, determinasse un'estetica funzionale a veicolare questo concetto. Invece il curatore mi diceva che ci sono anche delle fotografie, e quelle invece a che tema si riferiscono? C'è una fotografia che si chiama Autoritratto su menta con camicia bianca, che è realizzata attraverso una riflessione della mia immagine su una vasca di sciroppo di menta e quindi una fotografia diciamo che riprende il movimento di questo sciroppo che deforma la mia immagine. È una serie di lavori che è iniziata intorno al 2009-2010 che è progredita, è andata avanti con gli anni e ha come, diciamo, come concetto base l'idea che il mio autoritratto sia appoggiato su una superficie mobile che è sintomatico anche di un movimento della personalità che riguarda non solo me, ma che riguarda tutti noi. E quindi come mai c'è stata questa scelta di metterli in dialogo con Perché mi guardi così? Ma non è una scelta razionale, semplicemente mi piaceva l'idea di mettere queste opere vicino, quindi un ritratto, un'opera iconografica che paradossalmente è ricavata attraverso il movimento di un liquido che in qualche modo guarda la scultura di due persone che si guardano tra loro e che anche loro sono in relazione ad un liquido, però sono cose che poi emergono anche naturalmente.